come si chiama questo qua? Techno Wombs. E il nome dell'artista? Orchestra Maldestra. Versione? Gigi Wombs. Techno Wombs. Gigi Wombs. Adesso vi presento Foca Loca. Sa capì? Sempre lento violento me. È il titolo di questo brano qui, questo. The Final Countdown. un amico. Dici? Sì. È la canzone di Federico. Scelgo. Federico Romanzo. Sempre lento, io lento meno. pigia pigia. Stai a pigia? E allora pigia pigia. Antascor da Maia. Cos'è? Raga Tanz. Ah, era da adesso. Questa fantasia è il nome dell'artista. Entropia sonora. Cosa vuol dire? Il vento spiega. Comincio a suonare molto presto. Discoteca Roncaccio. D'Agostino. Via Milano 19. Località Bizzarone. Se non vieni sei un coglione. Provincia di Como. Da Milano prendere per la Como Chiasso. Uscire allo mazzo. E non fare quella faccia da cane. E niente, allora ci vediamo lì. Wherever.